qua, venerdì 18 settembre alcuni giornali aprono sulle decisioni della Fed che lascia i tassi di interesse, non li sposta, tassi americani fermi allo 0,25%, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, ma anche economia e i timori americani. È l'apertura del Corriere della Sera con la Fed che non alza i tassi a sostegno della ripresa e anche il Messaggero, crescita bassa frenata della Fed. Il Senato per Repubblica, Renzi sul Senato, accordo possibile, scontro con Grasso. Il Fatto Quotidiano, minacce, ricatti, compravendite, ma se lo facesse Berlusconi? L'accusa ovviamente è a Renzi sul Senato. Per la Stampa, l'immigrazione, entreremo in Europa a ogni costo. Queste sono alcune delle frasi dei migranti in viaggio, soprattutto dalla Siria. E poi Libero, Papa contro Papa, Vaticano senza pace, Bergoglio irritato per l'appoggio di Papa Ratzinger a un cardinale africano che si pone come capofila all'opposizione al suo pontificato. Questo è lo scenario di Libero. Ma voglio subito andare a leggere qualcosa perché oggi ci sono tante notizie. Allora, intanto c'è uno stipendio che vi è stato comunicato ieri e che viene oggi messo in ampio risalto sui giornali. È lo stipendio di Susanna Camusso. Volete sapere, cari italiani, cari lavoratori, quanto guadagna il segretario generale della CGIL? È stato svelato ieri dalla CGIL stessa. Guadagna 3.850 euro netti al mese, mentre invece le cifre dello stipendio dei funzionari di più alto grado della CGIL, i componenti della segreteria nazionale, Landini per esempio, Landini che è alla FIOM e altri, 2.800 euro netti al mese, e sono quelli che guadagnano di più, ha detto il responsabile della CGIL base 8, che ieri davanti a 921 delegati riuniti all'auditorium della musica ha spiegato e ha rivelato questi stipendi. Camusso guadagna questo e le retribuzioni sono ferme dal 2008, dati che sono online. Il Repubblica fa anche il conto del lordo, 7.317 euro lordi al mese, 3.850 netti. Ecco, quando gli arriva la busta paga? Una riflessione più profonda sull'importanza del costo del lavoro. 7.317 lordi, 3.850 netti. Lo farà anche Susanna Camusso sicuramente, sono sicuro. Comunque eccoci qua, la CGIL alza il velo, Camusso guadagna il triplo di un operaio. Il giornale la mette così, un po' polemica nei confronti della Camusso. CGIL rivela gli stipendi a Camusso, 3.850 euro per il Corriere della Sera. Svolta in CGIL, leader scelto dai lavoratori, mette in risalto invece questa notizia Repubblica, e poi più in basso Camusso anche per Libero, batte Landini, 3.850 euro a 2.800, e vabbè, questo lo stipendio di Susanna Camusso. Mentre che ti ha combinato Berlusconi? L'abbiamo sentito nel giornale radio. Vabbè, è andato da Putin in Russia e fin qui tutto bene, solo che Putin l'ha portato in Crimea, territorio che l'Ucraina rivendica e la Russia dice ormai è sotto il controllo russo. Risultato: l'Ucraina giudica e sancisce che Berlusconi sia persona non grata, persona non gradita per i prossimi tre anni. Addirittura il Corriere della Sera: Berlusconi, la Crimea, lo Sherry, c'è anche questa cosa dello Sherry del 1775, valore della bottiglia $150.000, che l'azienda vinicola Massandra ha offerto a lui e Putin, ed è valso all'ex premier italiano una causa di appropriazione di patrimonio in quantità particolarmente rilevanti aperta dalla Procura Generale Ucraina. Cioè, insomma, c'è un procedimento giudiziario in Ucraina adesso Berlusconi, giudici comunisti. E così la beffa è arrivata proprio su questo. Allora, Berlusconi, il Corriere va a intervistare Andriy Shevchenko, l'ex grandissimo del Milan. Intervista, per la verità, Shevchenko, telefonata del Corriere, dice: no, guardi, io non sono più in politica e con queste cose non c'entro nulla, e ora la saluto. Shevchenko non commenta, e domenica scorsa era anche a vedere il derby a San Siro. Comunque, Brindisi proibito con l'amico Putin, Kiev vieta l'ingresso a Berlusconi, è il titolo di pagina 13 del Giorno. Kiev bandisce il cavaliere per un brindisi con Putin, anche Salvatore Dama, pagina 7 di Libero. La versione ucraina della legge che impedisce a Berlusconi di andare in Parlamento, la Severinov. La Severinov, scrive Salvatore Dama, in Ucraina. Berlusconi, vabbè, tra l'altro, aperta parentesi, Berlusconi forse leggerà l'intervista che Selvaggia Lucarelli oggi sul Fatto Quotidiano fa a Lele Mora. Torna a parlare Lele Mora, perché Lele Mora a un certo punto dice così: io dico a Berlusconi che cerco di chiamare, ma non me lo passano mai. E alla domanda di Selvaggio Lucarelli: ma avrà un cellulare? Ma credo che la Pascale non gli faccia usare neanche quello. Ebbene, dice Lele Mora, stia attento Berlusconi alla Pascale, perché la Pascale è per Berlusconi ciò che Fabrizio Corona è stato per me. Io subivo il suo fascino, di Corona. Lui sapeva come comprarmi. Mi chiamava Tatino, mi faceva le moine e poi mi fregava tutto: soldi, scoop, fiducia. L'ultima volta mi ha chiesto denaro per aprire una panetteria. Non ho più visto né i soldi e neanche una baguette. Ecco, questo Lele Mora parla così di Fabrizio Corona, ma in realtà mette in guardia Berlusconi a dire attenzione, perché Berlusconi farai come mi ha mandato in rovina Corona, ora la Pascale sta facendo lo stesso con Berlusconi. Quindi insomma, problemi per Berlusconi, dallo Sherry al Putin, dalla Severinov a Lele Mora che lo mette in guardia. Allora, Il Giorno ha due articoli e li voglio leggere perché sono interessanti, sono accomunati, sono messi vicini, potrebbero essere messi in un gigantesco appello o sotto un cappello: mani sul volante se siete alla guida, perché questi sono i due articoli che ci fanno pensare di questa giornata, a cominciare da che cosa? Beh, Lorenzo Bianchi, pagina 3, gli ennesimi soldi ai quotidiani di partito. Ai quotidiani di partito, qui si fa la rassegna stampa. E allora spiccano che cosa? Al primo posto Avvenire, 3.400.000 euro. Italia Oggi, 3.050.000 euro. Unità, 2.670.000 euro. Il Manifesto, 1.960.000. Beh, la Padania, che è chiusa, è la nostra amica Aurora Lussana, 1.360.000. Il Foglio di Ferrara, 1.200.000. Ma anche il settimanale cattolico Famiglia Cristiana, oppure che Conquiste del Lavoro. Italia Ornitologica, 11.455 euro. Patria Indipendente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha incassato 2.960, per carità, poco. Car Audio and FM, 58.416. la rivista Chitarre, 7.737 euro, ma il primo settembre ha annunciato tristemente che è stata risucchiata dal fiume ogni giorno più grosso dei giornali che chiudono. Comunque, giornali di partito, la solita buffata, pagina 3 del Giorno, ma non è finita. A pagina 2 del Giorno è anche il titolo di prima pagina: Governo, regali a pioggia. C'è l'elenco, che è stato pubblicato dal sito lanotizia.it e ripreso dal Giorno, dei 758 enti che si sono spartiti 445 milioni devoluti da Palazzo Chigi, che per carità sono soldi, scrive Matteo Palo a pagina 2 del Giorno, che nascono con un nobile intento, nobilissimo: sussidi per volontariato, attività culturali, mostre, spettacoli dedicati a enti e associazioni. Ma poi si va a spulciare tutto questo elenco. E allora, per esempio, non lo so, per la presentazione del film Fango e Gloria sono stati concessi 100.000 euro. Oppure il corso di alto perfezionamento di vocalità verdiana nel comune di Busseto, per carità, Verdi, importantissimo, 123.000 euro. 100.000 euro a Parma per il Festival Verdi 2013, 30.000 a Milano per il progetto espositivo Veni, Vidi, Verdi, 34.000 per la mostra a Pechino Verdi e l'alfabeto del sentimento umano. Oh, Verdi tira ancora tantissimo. Ma poi anche i comuni: a Traversella, paese di 350 abitanti nel torinese. Amici di Traversella, c'è qualcuno che ci ascolta da lì? Sappiate che vi sono stati assegnati dal governo 756.000 euro per il miglioramento della fruibilità turistico-ricettiva. A Rassa, in provincia di Vercelli, 66 abitanti, Rassa, 66 abitanti, 770.000 euro per la promozione dell'uso delle energie alternative. E così via, al di là degli importi che saranno tutti giustificati, tutti importantissimi, scrive il Giorno, sembra di guardare un lunghissimo elenco di mance, mancette, per un totale di importo di circa 500 milioni di euro, sono i regali a pioggia di Palazzo Chigi, mezzo miliardi tra mance e sussidi. Comunque, la battaglia sul Senato. La battaglia epocale sul Senato. Oh, state tranquilli, non succede nulla fino a mercoledì. Mercoledì è il giorno, martedì credo, sera entro il quale bisogna presentare gli emendamenti. E quindi lì si capirà quanti saranno questi emendamenti. Però già ci sono tutti, pagine, paginate, 4 pagine del Corriere della Sera sulla battaglia sul Senato. Renzi, grasso, scintille in Senato. La prima prova passa con 171 voti. Sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità. Ma attenzione, c'è intanto il turbamento di Grasso. Monica Guerzoni attribuisce a Grasso questa frase in un retroscena a pagina 8. Grasso è il presidente del Senato. Sono giorni convulsi e i prossimi, temo, saranno anche peggio. Ma io sono un inguaribile ottimista. Il dibattito pubblico è precipitato in basso. Questa è una considerazione che ieri ha fatto intervenendo a un convegno. Il Fatto accusa Renzi, si vuole prendere tutto in Parlamento, minacce, ricatti, compravendite. Ma se lo facesse Berlusconi? Si chiede il Fatto Quotidiano. Al suc di Palazzo Madama, offerte, sospette, ma anche tanti trolley. C'è questa foto a pagina 2 del Fatto Quotidiano dei trolley già lì pronti, perché è venerdì e quindi oggi seduta veloce e poi via tutti i senatori che tornano alla loro casa. Secondo il Fatto Quotidiano addirittura Grasso non ci sta a finire nel museo e avverte sarà caos. Ah, tra l'altro questa cosa del museo è una frase che è stata attribuita a Renzi e smentita seccamente in maniera anche abbastanza decisa dai suoi. Renzi avrebbe detto: se mi fanno arrabbiare chiudo il Senato e ci faccio un bel museo, ma la frase è stata smentita, ieri lo scriveva La Stampa, Renzi ha smentito. Racconta invece Fabrizio Roncone che succede al Senato in questo suc, va a chiedere ai vari senatori come si stia vivendo questo clima. Sentite per esempio sulla Stampa il senatore Danna: questa riforma è una fetenzia, intervistato da Ilario Lombardo, a pagina 9. Eppure forse la voto, ma qua ormai vedo gente che è solo carne morta che cammina. Cioè, voi vi rendete conto? Ecco, questo è il dibattito. O vi rendete conto di questo? Sentite qui cosa sta meditando Calderoli. È quello dei tanti emendamenti. Come detto, mercoledì, entro mercoledì bisogna presentare gli emendamenti. Calderoli, che ne ha ritirati 500.000 in commissione, ha già annunciato una sorpresina. La sorpresina è questa. Grazie a un algoritmo, lo scrive Mattia Feltri sulla Stampa, pagina 8, Calderoli sta presentando decine di milioni di emendamenti. Decine di milioni vuol dire, non so, 50 milioni, 60 milioni di emendamenti. Funziona così, lo dice Calderoli stesso. Abbiamo messo a punto un algoritmo. Io scrivo un emendamento, anzi sono 3 algoritmi. Io scrivo l'emendamento e il computer poi lo riscrive spostando la virgola varie volte nel medesimo testo. Ogni virgola spostata è un emendamento nuovo, o creando altrettante varianti dell'emendamento. Per esempio, io scrivo pera e l'algoritmo sposterà tutte le virgole, poi sostituirà pera con frutta e poi invece di pera e frutta metterà vegetale e così via. E si moltiplicano gli emendamenti e ne presenterò, grazie a questo algoritmo, milioni, milioni, milioni, milioni, milioni. Ecco qui, però mi dicono che va seguito il dibattito politico e che mi criticano anche dicendo a noi italiani, molti mi scrivono, interessa la riforma del Senato, interessa questa roba qui? Interessa questo dibattito qui? A questo livello qui? Beh, beati voi. Anna Finocchiaro, pagina 4 di Repubblica, fa un'intervista: sopporto i sospetti su di me con cristiana virtù. Ma vi rendete conto di cosa si sta parlando. La riforma del Senato è importante, riforma costituzionale, ma con questi toni, con queste vabbè. Interessante, per esempio, a riproposito di Senato, la vicenda che racconta il senatore Giuseppe Vacciano del Movimento 5 Stelle, anche se per la verità lui dice: non mi riconosco più nel Movimento 5 Stelle. A pagina 4 di Libero, lui non si riconosce più nel Movimento 5 Stelle e quindi vuole lasciare il Senato. Dice: voglio tornare al mio lavoro. Però c'è un piccolo però. Per dimettersi da Camera e Senato uno si dimette e poi le dimissioni devono essere approvate dall'Aula. E lui per due volte ha presentato le dimissioni dal Senato e l'Aula respinge le dimissioni. Per cui dice: sono disperato, prigioniero della casta. Sembra assurdo, ma io non vedo l'ora di lasciare il Senato e tornare al mio lavoro, impiegato alla Banca d'Italia. Basta con la politica. Avevo detto che avrei smesso dopo una legislatura, ma voglio smettere subito, prima. Ma sembra impossibile. Io presento le dimissioni già due volte e per due volte me le hanno respinte a maggioranza. Lui poi dice: io non mi sento più del Movimento 5 Stelle, non è più la mia casa e quindi sono coerente e penso sia giusto togliermi di parte e lasciare la possibilità a un altro, invece che dopo che si è cambiato il gruppo. Anche da ex però sono il più grillino. Voglio lasciare il Parlamento, sono sicurissimo, mi dimetto, ma l'Aula respinge le dimissioni. Ecco, succede anche questo. Oh, in tutto ciò è interessante l'intervista che Carlo De Benedetti, imprenditore, editore anche di Repubblica Espresso, rilascia, l'intervista che rilascia al Foglio, intervistato dal direttore Claudio Cerasa. Fa tutto un discorso su come si è cambiata la politica con l'arrivo della tecnologia. Una politica che deve ora capire che gli elettori si sentono rappresentati solo da chi riesce a interessarsi al singolo individuo, alla sua vita, più che agli ideali. Scrive, dice De Benedetti, viceversa gli elettori si sentono molto lontani da chi si fa guidare da un'ideologia per rappresentare la società e fa l'esempio della sinistra. Dice Carlo De Benedetti: non bisogna essere scienziati della politica per capire che da quando Berlusconi non è più presente come lo era un tempo, la sinistra è letteralmente rimasta senza ideali. Per molti è stata una disfatta. Cosa siamo noi senza Berlusconi? Cosa interpretiamo? E come facciamo ad aggregarci, stare insieme senza il grande aggregatore? Questo è un problema che riguarda la politica e non chi fa informazione. E io rivendico con orgoglio di essere alla guida di un gruppo editoriale coerente che ha avuto il merito storico di opporsi con serietà e decisione a Berlusconi, a un ideale negativo come il berlusconismo. Dice poi Carlo De Benedetti di Renzi: è figlio della modernità, espressione delle novità che le ho descritto. Non è né di destra né di sinistra, è un politico nuovo che non so se avrà successo, ma interpreta meglio di altri questo tratto del presente: concentrarsi di più sugli interessi delle persone che sui loro ideali. E poi insomma racconta ancora la sua posizione sulla politica, però è interessante l'intervista a Carlo De Benedetti sul Foglio. Ma siamo qui, come detto, il Sole 24 Ore apre invece sulla decisione della Fed americana di non spostare i tassi, vero Mauro Meazza? Vero caro Alessandro, buona giornata a tutti. Spieghiamo il senso di questa decisione, i motivi che stanno alla base della decisione e anche i possibili effetti sui mercati, soprattutto per i risparmiatori, in una bussola che stavo appunto leggendo adesso quando mi hai chiamato, quello di Andrea Franceschi, oggi sul Sole 24 Ore, anche spiega perché e soprattutto che succede, perché ci sono delle, come sai, delle incognite appunto legate soprattutto alla Cina dal punto di vista economico. Ma c'è molto altro oggi sul Sole 24 Ore, ho anche una sorpresina apposta per te. Sì. Innanzitutto devo correggermi. Ieri ti ho chiesto 3 miliardi per abolire la TASI, mi pare. Sì. Hai 3 miliardi? No, ovviamente no. Vabbè, mai un aiuto. Vorrei correggermi perché i miliardi sono 5. Lo apprendo da Sole 24 Ore di oggi, perché appunto i conti, l'ANCI ha rifatto i conti, l'Associazione dei Comuni, e ha detto che no, veramente se ci togliete la TASI a noi servirebbero 5 miliardi, quindi non 3. Faccio ammenda prendo atto di questo aggiornamento. È andato bene l'export di luglio, una buona notizia, una notizia mani, come dire, dita incrociate, vogliamo chiamarla? Chiamiamola così. Mani sul volante, ecco. È andato bene, ce ne riferiamo nelle pagine di Impresa e Territori. Questo è un valore positivo, così come sono positive migliorate le aspettative segnalate ieri dal Centro Studi di Confindustria, il PIL che dovrebbe crescere dell'1% a fine anno. Sei un po' più sollevato? Sono sollevato. Ma adesso ti do la vera consolazione, chicca. La chicca. Oggi hai detto che oggi si chiude la 124esima settimana. Sì. Ma qualcosa si muove. Perché nelle pagine di norme e tributi che tu devi leggere, come le devi leggere? Te con attenzione estrema. Religiosamente. In quelle pagine ti segnaliamo che è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce i livelli di stipendio per chi viene spostato dalle abolende province. Le abolende. Hai capito? Quindi questo è un passaggio molto importante. Se tu leggi religiosamente le pagine di norme e tributi, vedrai che questo è importante. Si muove qualcosa, quindi caro il mio gufo debosciato, vedi che le cose cambiano, anche se magari meno velocemente di quanto tu ti aspetti. Nella 125esima settimana chissà che sorpresa ti riservo. Un'ultima cosa, ho bisogno di un po' di tempo perché devi sapere che arriverà il DUC, scusa devo leggere l'appunto perché non vorrei sbagliare, il documento unico di circolazione. Bene. Allora, immigrazione. Il Corriere della Sera racconta, pagina 15, un progetto che è del governo, ma anche una roadmap che è stata inviata da Bruxelles al nostro governo e che prevede questo. Fiorenza Sarzanini, un centro in ogni regione italiana. Ecco dove andranno i migranti. Entro un anno, scrive il Corriere, tutte le regioni italiane avranno almeno un centro di accoglienza per i migranti. I luoghi sono già stati individuati, alcuni sono già operativi, si tratta di hotel, caserme, edifici industriali. E la lista predisposta dal Dipartimento Immigrazione al Ministero dell'Interno è stata già trasmessa alla Commissione Europea all'interno di una roadmap che il nostro Paese è obbligato a comunicare per non perdere il diritto a far andare via i 24.000 richiedenti asilo. Sono 5 gli edifici militari che in Friuli dovranno per esempio ospitare 300 persone, la caserma Cavarzerani, la caserma di Prepotto, quella di Fusine, la caserma di Muggia a Trieste, quella di Cordovado in provincia di Pordenone, poi l'ex centro identificazione di Bologna è stato trasformato in un hub e può ospitare 200 persone, in Puglia sono stati scelti i CARA, cioè i centri per i richiedenti asilo, con Bari che ha una capienza di 1000 persone, Foggia 800 e così via. Trovate l'elenco sul Corriere della Sera a pagina 15. A proposito di immigrazione, sapete, ieri ne abbiamo parlato, che in Lombardia hanno deciso di escludere in pratica dai bandi quegli alberghi che ospitano i migranti, cioè la formula è escludiamo dai bandi e finanziamenti quegli alberghi che non vivono esclusivamente di turismo. Capite che se uno prende dei migranti sembra proprio fatta apposta. E allora torna la stampa a intervistare con Stefano Rizzato quell'albergatore Giulio Salvi che a Cosio Valtellino, cioè in provincia di Sondrio, dunque in Valtellina, in Lombardia, ha avuto anche le minacce a morte. Ti bruciamo l'hotel perché ospita i migranti. Eccolo qui, lui dice, sono orgoglioso. Ormai possiamo dire che abbiamo la legge anti-Salvi. Lui si chiama Salvi. Qui in Lombardia sono contento di aver alzato questo polverone. Siamo alla follia. La speculazione sarebbe fatta sarebbe fare tutto volando basso, senza dire niente, ma io non me la sento. Questo discorso mi dà fastidio, parlare di cifre, però facciamolo. Ricevo 37,50 € al giorno per migrante, faccia i conti, sono circa 2.500 € al giorno. Mi fanno schifo? No. Mi sto arricchendo? Nemmeno. Lavoro con una moglie, 2 figli e 6 dipendenti. Dovrei chiudere per far piacere a qualche politico? Dovrei lasciare in giro 71 persone che non si saprebbe dove mettere? Io faccio l'albergatore, cerco di essere pragmatico. La prefettura li smista, a chi ha dato possibilità e anche altri alberghi in zona li accolgono. Io ho solo scelto di dirlo ad alta voce e lanciare il messaggio a Salvini, scoccia che io ci guadagni e faccia lavorare i ragazzi. Così dice l'albergatore, insomma ancora la polemica su questo. C'è tanto da leggere, ma devo andare subito alla carta costa. Beh no, vi dico che in Regione Piemonte, dice Libero, e lo dico anche in diretta su Periscope, hanno approvato una battaglia, una legge per il naturismo. Il naturismo, cioè i turisti nudi. sì di Movimento 5 Stelle e SEL, la dura battaglia sul naturismo. Ma devo andare alla carta costa. Ah beh, la carta costa non è una pagina intera del Corriere su un tweet di Balotelli con richiamo in prima pagina. Non è questa la carta costa. Cioè Balotelli che ha detto, ha scritto su un tweet su Twitter: perché non ho mai provato l'amore vero? E sul Corriere ci fanno una pagina. Tra l'altro Balotelli ha già scritto un altro tweet dicendo: mi fate molto ridere, siamo solo ragazzi, ho fatto una battuta. Vabbè, ma eccolo qui la carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali, ma rido da mezz'ora. Sapete che anche gli animali parlano in dialetto. E vedete perché voglio le sigle. Vorrei una sigla di un Rottweiler, non so, bolzanino, e di un Chihuahua di Messina. Parlano in dialetto, così come il canto delle balene, gli animali, i cani di sud e nord. Non si capiscono, scrive Oscar Gazzioli sul giornale, un'intera pagina. Non so, al nord sono più... wow, wow, wow, al centro... wow, al nord questo è... wow, wow, wow, wow, wow, wow, al sud, ma...